ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. La Corte Costituzionale accompagna da più di 60 anni le donne nel lungo cammino verso la parità promessa dalla Costituzione. Un cammino lento e non ancora compiuto, fatto di passi avanti e di arresti, di traguardi entusiasmanti e di lunghe attese. Dice la Costituzione: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso. Nell'elenco delle varie possibili discriminazioni indicato dai padri costituenti, quella di genere è la prima da superare e la prima ad essere indicata. Ma 76 anni dopo la scrittura della Costituzione, basta sfogliare le cronache per rendersi conto che non è ancora così fino in fondo. Questo punto della Carta fondamentale non è dunque ancora stato attuato in pieno? Nel podcast del giudice della Corte Costituzionale, Daria De Pretis, scorrono tutti i passi in avanti e tutte le frenate di una discriminazione che, se non esiste più nelle norme, forse, a volte fa fatica ad essere scardinata nella vita quotidiana, e questo anche per il tempo relativamente esiguo trascorso dai giorni in cui il marito era, ad esempio, per legge colui a cui toccava l'ultima parola. Correva l'anno 1975. Fino al 1975, cioè fino alla riforma del diritto di famiglia, il marito era il capo della famiglia e aveva l'ultima parola su tutte le decisioni che la riguardavano. Che la donna sposandosi perdeva la propria cittadinanza se diversa da quella del marito, che non esisteva il divorzio, che abortire era in ogni caso un reato, e così era l'adulterio se commesso da una donna. Ricordiamoci che c'erano lavori vietati alle donne e lavori per i quali non era nemmeno concepibile che li potesse svolgere una donna. Ci pare evidente oggi che tutto questo era inconciliabile con la regola costituzionale per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso. Ma più in generale ricordiamoci che anche al di là dei divieti e delle distinzioni formali, la partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica del paese era minima, e che il problema di superamento delle disuguaglianze che la Costituzione pone non è solo quello formale dell'uguaglianza davanti alla legge, ma è quello sostanziale della disuguaglianza di fatto. Perché la Costituzione, all'articolo 3 che ho citato, nella seconda parte, assegna un compito alla Repubblica. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La strada è dunque lunga per rimuovere quegli ostacoli. Quanto si è parlato di come anche l'emergenza coronavirus abbia danneggiato soprattutto le donne e le loro carriere. Eppure la nostra Repubblica è nata femmina, è nata anche grazie al voto delle donne che votarono per la prima volta per il referendum del 2 giugno, è nata anche grazie al contributo di un gruppo di madri costituenti, 21, che facevano parte dell'Assemblea Costituente. Certo, erano 21 a fronte di 556 componenti, un po' poche, ma come ricorda la giudice Daria De Pretis, quelle donne furono molto attive e lanciarono lo sguardo verso un orizzonte al di là del quale a volte, ancora oggi, quasi un secolo dopo, molti non riescono a guardare. Insomma, per la Costituzione non è sufficiente che la legge non discrimini formalmente le donne, trattandole in modo diverso dagli uomini, ma occorre che la legge tenga conto delle circostanze di fatto, del contesto concreto, dei condizionamenti che sulla base dell'esperienza sappiamo che le donne subiscono. Pensiamo a cosa significa in una società il lavoro di cura dei figli, della famiglia, degli anziani, un lavoro che ricade ancora oggi prevalentemente sulle donne. O pensiamo ancora al fatto che a determinati ruoli le donne non hanno accesso, non perché sia l'accesso formalmente vietato, ma perché i meccanismi di cooptazione e i condizionamenti culturali spesso portano a far sì che siano scelti sempre o quasi sempre uomini. Ebbene, tutto questo richiede che la legge si impegni a cambiare questi condizionamenti e che lo faccia con azioni ad hoc, con azioni che tengano conto della diversità dei punti di partenza e che favoriscano chi parte svantaggiato. Quelle azioni che si chiamano oggi, che si sarebbero poi chiamate azioni positive. In altre parole, realizzare l'eguaglianza non è soltanto trattare in maniera uguale situazioni uguali, ma anche prendere atto delle differenze fattuali e assumere le misure necessarie per superarle. The evening breeze caress the trees tenderly. Ecco, questo è stato il lavoro della Corte Costituzionale nel valutare le leggi che nel tempo hanno riguardato la condizione della donna e che le sono state sottoposte. Dichiarare incostituzionali leggi che discriminano le donne, direttamente o indirettamente, non tenendo conto degli ostacoli che di fatto limitano la loro eguaglianza. Valutare la ragionevolezza delle norme che cercano di superare il gap di genere prevedendo trattamenti differenziati e, quando è necessario, richiamare il Parlamento al suo impegno con quell'altro strumento di cui la Corte Costituzionale dispone, cioè il monito, un modo in cui si rivolge direttamente al legislatore sollecitandolo a intervenire a tutela dei diritti. Quante cose noi oggi diamo per scontate, assodate, e invece sono state il traguardo di un cammino non breve e spesso anche tortuoso. Se per esempio oggi ci sono donne magistrato e a noi sembra difficile immaginare il contrario, è anche perché la Corte Costituzionale con una sentenza diede ragione esattamente 50 anni fa alla giovane giurista Rosy Oliva e fece cadere i divieti ad indossare la toga per una donna. Ma come ogni percorso, ai passi avanti si alternano a volte brusche frenate, perché anche i giudici, e questo vale anche per i 15 membri della Consulta, nel bene e nel male sono inseriti nel loro mondo e per certi versi lo riflettono. Così, ad esempio, ci sono stati tempi neanche troppo lontani in cui gli stessi giudici valutavano in modo diverso l'adulterio femminile. È difficile immaginare oggi che fino agli anni 60 il codice penale considerasse reato l'adulterio femminile, solo quello femminile, mentre non riservava lo stesso trattamento a quello maschile. La Corte fu chiamata ad occuparsi di questo diverso trattamento nel 1961 e concluse che la norma non era incostituzionale, perché la disparità di trattamento, che era innegabile, sarebbe stata diretta a proteggere un altro valore costituzionale, quello della famiglia e della sua unità. L'adulterio femminile sarebbe stato, in altre parole, per l'unità familiare più grave di quello maschile, e quindi non sarebbe stato irragionevole nel bilanciamento operato dal legislatore, considerare il reato l'adulterio della donna e non quello dell'uomo. Pochi anni dopo, tuttavia, la questione fu riportata alla Corte Costituzionale. Si era arrivati nel frattempo al 1968. Vi voglio leggere quel brano di sentenza. Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia e all'unità familiare e produceva comunque una discriminazione costituzionalmente intollerabile. La Corte cambiò idea, tenne conto quindi del mutamento della società che nel frattempo viveva il 68 e quel vento di cambiamento entrò anche nella Camera di Consiglio del Palazzo della Consulta e i giudici in questa nuova pronuncia considerarono quel diverso trattamento sull'adulterio non più come necessario a tutela della famiglia ma come un nocumento della stessa famiglia. Questo aprì poi la strada anche alle modifiche del diritto di famiglia e quindi al riconoscimento, ad esempio, della piena parità dei coniugi. Tutto questo sembra il racconto di mondi lontani, sembra qualcosa relegato alle pagine di storia, invece per tantissime donne quel mondo è memoria diretta, tutt'oggi. L'hanno vissuto, l'hanno patito, come l'hanno vissuto e respirato tanti uomini e bisogna conoscere queste tappe per capire che se almeno formalmente, nella maggioranza dei casi, le differenze di genere sono ormai superate, i passi da compiere restano nella quotidianità ancora tantissimi, come gli ostacoli che la Repubblica deve rimuovere per attuare quella parità. Delle disparità di genere si è, come dicevamo, parlato molto anche quale effetto dell'emergenza coronavirus sugli stravolgimenti della nostra vita. Anche per il welfare questo è avvenuto e di questo parliamo nella seconda parte di Storiacce della Costituzione e del welfare e soprattutto del servizio sanitario. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta. I racconti di Storiacce. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, ma ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e le proprie vocazioni un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Nella nostra Costituzione, dunque, i diritti non sono solo qualcosa di astratto, mete ideali, ma sono concrete prescrizioni che reclamano norme precise per assicurare, ad esempio, adeguate prestazioni sociali. Scuola, trasporti, cure mediche, la vita di tutti noi dunque, perché se possiamo andare in un pronto soccorso ed essere presi in cura dal Servizio Sanitario Nazionale è perché la Costituzione lo garantisce. Ma quante volte, proprio nei mesi dell'epidemia, abbiamo sentito messo a rischio questo nostro diritto fondamentale con un servizio sanitario travolto dai numeri del virus? In realtà, anche se tutto questo ha dei costi e non si può non tenerne conto in un paese non ricchissimo come il nostro, la nostra Costituzione è molto chiara sul punto, sul rapporto che deve esserci tra l'equilibrio delle risorse e la qualità delle prestazioni sociali. E ancora una volta, i podcast della Corte Costituzionale toccano aspetti cruciali della nostra vita, come il welfare, appunto, filo conduttore dell'audio racconto del giudice Aldo Carosi. di fronte al pericolo di una legislazione orientata a subordinare la protezione costituzionale di tali diritti rispetto alle politiche di contenimento della spesa, la Corte Costituzionale ha reagito con incisività crescente, come detto. Così è stato più volte affermato che le prestazioni sociali sono soggette ad un giudizio di sostenibilità economica, ma ve ne sono alcune che non possono essere gestite sotto il livello di essenzialità. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema. Così è avvenuto per esempio per la garanzia dell'assistenza scolastica e del relativo trasporto dei soggetti diversamente abili, la sentenza 275 del 2016, così per l'assistenza sanitaria, che deve essere incentrata sulla individualità del malato, così per la cura delle malattie rare deve garantire un intervento anche maggiormente costoso, e così per la intangibilità della professione medica dalla pretesa di subordinarla ai tagli e al controllo della spesa sanitaria. Si possono ricordare in tal senso le sentenze 169 del 2017 e 62 del 2020. Questo orientamento si è consolidato soprattutto nel campo del Servizio Sanitario Nazionale poco prima dello scoppio della pandemia coronavirus. La Corte Costituzionale aveva messo più volte in guardia lo Stato e le Regioni sulle falle di un sistema pensato bene dal legislatore costituzionale, ma attuato in modo sicuramente perfettibile. Meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Come già precisato, i livelli essenziali delle prestazioni devono essere determinati dal legislatore e garantiti su tutto il territorio nazionale. Devono essere determinate separatamente le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni rispetto alle altre spese di natura sociale. Per le prime, cioè quelle essenziali, gli apparati amministrativi statali e regionali devono assicurare il finanziamento e la prestazione in modo integrale. Per le seconde, la determinazione e l'attribuzione delle risorse è soggetta, come inevitabile, ad un bilanciamento in termini di sostenibilità economica con altre spese ugualmente importanti. Per le prime si è parlato di spese costituzionalmente necessarie, per le seconde di spese da determinare secondo la effettiva disponibilità dei fondi. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole. Nelle crisi economiche si lanciano sempre preoccupati allarmi proprio sulla possibilità di riuscire a tutelare i servizi di welfare, ma nella Costituzione scandisce con chiarezza il giudice Carosi: non c'è alcuna dicotomia tra economia e welfare, necessario anche per evitare il rischio di conflitti sociali. Una linea di indirizzo legislativo dello scorso decennio, soprattutto quella emersa dopo la grande crisi del 2009, ha molto enfatizzato la prevalenza dell'equilibrio del bilancio rispetto alla garanzia concreta delle prestazioni sottese al godimento dei diritti. A tale indirizzo ha reagito con crescente incisività la giurisprudenza della Corte Costituzionale, chiarendo che questa visione delle cose non è conforme alla Carta Costituzionale, sia con riguardo ai già richiamati articoli, sia con riguardo agli altri parametri costituzionali. Ma in questi casi la tutela del sociale che emerge in modo chiarissimo dalla lettura dei principali articoli della nostra Carta Costituzionale non è fissata, concretizzata in una precisa ideologia. Il suo è un pregio di natura pluralista. La nostra Costituzione ammette più soluzioni possibili che devono essere sinergiche e coerenti comunque nel raggiungimento dell'obiettivo finale, che è proprio l'attenzione alla persona e la garanzia di questi diritti. L'idea base della Costituzione è l'utilità sociale, intesa come la modalità per prevenire i conflitti che potrebbero emergere in caso di marcata subalternità delle classi sociali meno abbienti. Questo è ciò che deve essere evitato. Poi del modello si può discutere in ragione ai tempi storici, in ragione alle contingenze particolari e anche dell'evoluzione del pensiero che si sviluppa tra i consociati. Certi servizi essenziali dunque non possono essere tagliati oltre una certa soglia, e quanto di tutto questo si è discusso nei mesi in cui le terapie intensive non riuscivano ad accogliere tutti i pazienti e i medici ammettevano di dover scegliere chi intubare e chi no. La Costituzione ci tutela anche in questo, e le varie sentenze della Consulta hanno anche su questo messo in luce le carenze, perché quei diritti inviolabili siano raggiungibili in modo concreto e non restino solo begli ideali lontani. I racconti di Storiacce, in regia Gianmarco Ferronato. Sul sito di Radio 24 è possibile riascoltare tutte le puntate dedicate ai podcast della Corte Costituzionale, a cui dedichiamo il mese di settembre. Per ripartire, dunque, dalla Costituzione. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.